Incontri di Gianfranco Fabi. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, fevereiro. Tem carnaval. Tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sou um menino de mentalidade mediana. Con questo tocco tropicale, questo tocco brasiliano di Jorge Ben, iniziamo il programma di oggi. Buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio a quanti si ascoltano. Buongiorno e buona domenica a Valeria Sandei. Buongiorno. Ecco, prima di presentare Valeria Sandei, allora, vediamo perché ha scelto País Tropicale, un brano brasiliano, un brano molto vivace. Perché brasiliano o perché vivace? Per entrambe le cose. Devo dire che il Brasile è un paese che mi piace moltissimo e in cui mi piace molto anche lavorare, quindi da questo la scelta, anche musicale, perché apprezzo questo autore. Ecco, lavorare, nel senso che, allora, cominciamo a presentare Valeria Sandei, che è amministratore delegato di ArmaWave, una società di business intelligence del gruppo ArmaViva. E come, perché il Brasile? Perché il Brasile, perché è un mercato che sta crescendo molto, in cui c'è molta attenzione all'innovazione tecnologica, e quindi circa un paio d'anni fa ho deciso, seguendo quello che era già stato uno sviluppo del nostro gruppo, il gruppo ArmaViva, di radicare anche la società ArmaWave sul territorio brasiliano. In questo momento la società è operativa in Brasile con due sedi, una a San Paolo e un'altra a Belo Horizonte, e ci lavorano circa una quarantina di persone. Ecco, spieghiamo allora che cos'è ArmaViva e che cos'è ArmaWave, che è appunto la società di questo gruppo. Il gruppo ArmaViva è un gruppo italiano, leader nell'information and communication technology, con un fatturato di circa 700 milioni di euro, che opera appunto in Italia e all'estero, offrendo servizi di ICT che vanno dall'outsourcing alla system integration, allo sviluppo di grandi applicazioni che in realtà intervengono molto su quello che è il sistema paese. E offre anche servizi di CRM e di contact center, e in particolare con questa attività... Ecco, CRM, spieghiamo anche ai nostri ascoltatori che cos'è il CRM. È il Customer Relationship Management, scusate le sigle, ma a volte facendo questo lavoro si è presi da una serie di terminologie. Certo, noi invece dobbiamo spiegare. Esattamente. Quindi la relazione con i clienti finali, la relazione con i consumatori, la relazione con i cittadini, che passa attraverso diverse modalità di contatto. Possono essere modalità di contatto telefoniche o quelle più innovative, quindi che passano attraverso interazioni web, interazioni sulle reti sociali, l'utilizzo di canali come gli SMS. Quindi il modello che le aziende utilizzano per relazionarsi con i propri clienti in una modalità che usi tutti i canali oggi a disposizione. Ecco, in pratica voi aiutate le imprese a, appunto, avere questo rapporto col cliente, non solo a vendere il prodotto, ma a cercare che il cliente diventi un cliente abituale, affidabile, che continui appunto ad utilizzare un prodotto e quindi abbia un rapporto di fiducia verso l'impresa, creando appunto attorno al prodotto, che può essere magari solo la merendina o anche un'automobile, quindi molto più complesso, a creare una rete appunto di fiducia tra il consumatore e l'impresa. Esatto, può essere un prodotto o un servizio. Chiaramente offrire ai clienti e ai consumatori dei servizi di qualità passa per la disponibilità di risorse che abbiano questa qualità e quindi che siano in grado di relazionarsi nel modo migliore con i clienti e i consumatori, ma passa oggi anche per tantissima innovazione tecnologica. Ed è su questo che come gruppo e anche come azienda ArmaWave stiamo investendo e puntando molto, sullo sviluppo di tecnologie e quindi di soluzioni che permettano di rendere questa interazione con i clienti finali sempre più fluida, sempre più efficace, facendo alla fine dei conti perdere meno tempo al cliente, che è sempre, il tempo è un valore molto prezioso, e ottenere un risultato più soddisfacente e migliore. Quindi il rapporto col cliente, per fare un esempio, cosa può essere? Un call center molto più affidabile, molto esatto, più rapido, molto più efficace? Esatto, noi dobbiamo sapere che quando contattiamo appunto un call center, molti hanno anche questa tematica, non mi ha risolto il problema, ha avuto delle difficoltà, dall'altra parte c'è una persona che molto spesso viene chiamata ad interagire con tanta tecnologia e con tanta complessità. ArmaWave lavora su questa complessità cercando di proporre soluzioni sempre più semplici da utilizzare e che quindi rendano il lavoro delle persone un lavoro sempre più facile e più snello. Tutto questo a cosa deve portare? Deve portare alla possibilità di di relazionarsi in modo sempre più chiaro con la persona che è dall'altra parte appunto del telefono, cercando di rispondere nel modo migliore e nel tempo più rapido possibile. Ecco, ma quei contact center che dicono se devi fare questo schiaccia uno, se devi fare quest'altro schiaccia due, poi devi avanti così per successione in successione, arriveremo un po' a superarli? Anche su questo si sta facendo molta innovazione tecnologica, perché quelli che lei ha descritto si chiamano sistemi IVR, sono i sistemi che permettono di diciamo così instradare le chiamate verso il miglior operatore. Su questo ci sono diverse evoluzioni tecnologiche che prevedono ad esempio l'interazione in linguaggio naturale da parte del cliente, quindi il cliente può dire esattamente quello di cui ha bisogno e il sistema è in grado di comprendere e di indirizzare quella chiamata. Certo, ma... perché di solito dopo la quinta scelta indirizzando verso finalmente l'operatore si arriva la voce che dice l'operatore non è disponibile, richiamate più tardi. Diciamo, questo non dovrebbe accadere, questo nasconde altri problemi che tipicamente non dovrebbero avvenire per motivi poi di procedure, di operatività. Però l'importante è che la tecnologia sta facendo dei passi importanti per andare nella direzione della semplificazione e del miglioramento della relazione fra aziende e clienti, anche per far sì che il cliente abbia la possibilità di relazionarsi con la persona che è più idonea a trovare la risposta di cui ha bisogno. Sembrano tutte cose tra virgolette semplici, ma in realtà non lo sono affatto. Per questo in questi anni abbiamo deciso di investire molto sullo sviluppo appunto di tecnologie che sono tecnologie molto innovative sia in Italia che a livello internazionale, e che sono tecnologie nel caso di Alma Wave assolutamente made in Italy e che quindi realizziamo all'interno dei nostri laboratori. Quindi è possibile anche nel made in Italy trovare delle alte tecnologie, dell'alta innovazione, una capacità magari di coniugare questa innovazione anche con un approccio, diciamo così, un po' umano? Diciamo che il mio obiettivo sarebbe proprio quello, quindi lo slogan che è sottostante alla azienda Alma Wave è proprio People-Centered Technologies, mi scuso per l'inglese, ma avendo possiamo noi tradurlo. La velleità di andare anche sui mercati internazionali, oltre che la volontà, chiaramente devo utilizzare una terminologia che sia comprensibile ovunque, significa tecnologie basate sulla persona, quindi tecnologie che semplifichino proprio il rapporto fra l'uomo e lo strumento che deve utilizzare per andare in quella direzione di esperienza del cliente, che sia un'esperienza più facile, più efficace e quindi di maggior successo sia per il cliente che per l'azienda stessa. Ecco, lei qualche anno fa si è laureata alla Bocconi, non moltissimi anni fa, essendo molto giovane, poi ha iniziato nel mondo del private banking. Sì. E come mai questa scelta prima del private banking e poi di un settore che forse è collegato sicuramente con anche col settore finanziario, però è molto più tecnologico che non il settore finanziario in senso stretto? Ma diciamo che il mio percorso è stato quasi fin da subito orientato molto al mondo della consulenza, quindi ho iniziato la mia attività in una multinazionale che lavora anch'essa nell'area delle tecnologie, oltre che appunto della consulenza che è Accenture, e quindi lì ho potuto formare quella che è un mio punto di vista anche importante sullo scenario che si stava delineando, non soltanto sotto il profilo delle tecnologie ma anche sull'uso delle tecnologie. E un elemento importante è che in questi anni la tecnologia è sempre più banalizzata, semplificata, sempre più comprensibile a ciascuno di noi, quindi anche il non tecnico può utilizzare e può comprendere la tecnologia, quella che si chiama tecnologia user driven. E quindi questo cambiamento fa sì che parlare di tecnologia implichi prima di tutto comprendere alcune istanze del business, comprendere l'uso che deve essere fatta di quella tecnologia, oltre a saperla poi realizzare, certo, e sviluppare, ma per questo chiaramente mi avvalgo di professionalità molto specializzate che vanno a, come posso dire, compendiare quella che è la mia. Ecco, c'è un luogo comune certamente basato su un pregiudizio che non ha fondamento, secondo cui c'è una certa ostilità tra la femminilità e la tecnologia. Ma spero di smentirlo, nel senso che io amo molto la tecnologia e amo molto tutte le idee che oggi la tecnologia può realizzare. Un mio punto di vista è che fino a pochi anni fa il massimo che si poteva ambire nello sviluppare un software, un'applicazione, era di renderlo, come veniva definito, user friendly, quindi un po' più amichevole. Oggi la tecnologia apre nuove opportunità, apre nuove possibilità di creare, di interagire, di comprendere e collegare informazioni situazioni che prima non era possibile diciamo trattare, e quindi ha molto a che vedere anche con la creatività e con ciò che con queste informazioni si può effettivamente dare. Ecco, nell'interno della vita aziendale, l'essere donna, il poter far carriera ovviamente schiacciando un po' i piedi ai maschietti, è una cosa che è ancora difficile, è ancora un'eccezione, oppure abbiamo raggiunto ormai all'interno delle imprese italiane una capacità di premiare appunto il merito, la professionalità più che legati a certi schemi del passato? Dunque, direi una cosa non vera se affermassi che non esiste alcun tipo di problematica nell'essere donna e nel relazionarsi con un mondo che in realtà è fatto in prevalenza da uomini ancora oggi, soprattutto in Italia. Nel mondo questo sta sempre più cambiando e vediamo esempi di società che lavorano proprio sui temi della tecnologia, che hanno al proprio vertice donne di grande capacità e di grande visione. Nel mio caso sicuramente questo tipo di, tra virgolette, discriminazione non esiste, e quindi la mia linea manageriale è 50-50, ecco, sono stata, diciamo, quindi c'è una quota azzurra. Esatto, c'è una quota azzurra, è giusto dire così, perché fino a poco tempo fa era una prevalenza femminile e in questo momento sono 50-50. Le donne secondo me hanno un punto di vista che è fatto di creatività e di determinazione. Ovviamente non lo dico di me stessa perché sarebbe autoreferenziale, ma lo dico delle mie colleghe. E questo mix fa sì che si lavori meglio assieme, che ci siano più punti di vista, più sensibilità, più condivisione di opportunità diverse. Quindi è d'accordo sul fatto che ci sono comunque differenze tra uomo e donna, ma la differenza può diventare un valore, non va annullata. Assolutamente sì. Detto questo, chiaramente il recruiting è fatto sulla base delle competenze e delle capacità che ciascuno esprime, non potrebbe essere diversamente. Che differenza c'è tra il recruiting, che vuol dire la ricerca di lavoro, in Italia e in Brasile? Ma devo dire che in Italia la mia azienda è un'azienda che è passata in poco tempo comunque ad avere un numero ancora piccolo ma abbastanza significativo, perché siamo 120 persone ed è una compagine fatta in prevalenza di persone giovani, di ragazzi, di neolaureati, di ricercatori, proprio perché per sviluppare le tecnologie che ho rapidamente descritto prima servono tantissimi tipi di competenza. In questo devo dire ho trovato persone di grande preparazione, di grande voglia, di grande anche capacità, quindi sono soddisfatta del tipo di professionalità che sono riuscita a trovare in Italia. In Brasile sicuramente il Brasile è un mercato che sta crescendo anche sotto il profilo delle competenze e delle professionalità, anche se in questo momento per alcune figure apicali della mia azienda ho un management che è un management italiano. Quindi si può dire che le università italiane comunque formano ancora delle alte professionalità? Assolutamente sì, almeno mi sento di confermare che tutti i giovani che sono entrati in Alma Wave, che provengono da fisica, da ingegneria ovviamente, da matematica, tantissimi matematici, ma anche da lettere e da altre facoltà umanistiche, sono persone che hanno un'ottima attitudine, un'ottima capacità al lavoro e anche un'ottima competenza e conoscenza. Quindi anche una laurea in filosofia può essere utile per fare carriera in una società informatica? Ma nel mio campo sì, perché al di là che la filosofia probabilmente aiuta sempre nella comprensione di quelle che sono le dinamiche del pensiero, ma diciamo che io mi occupo di tecnologie del linguaggio, di tecnologie che servono a comprendere appunto il linguaggio naturale e a declinarne una rappresentazione. E per fare questo c'è bisogno di competenza tecnica, di competenza statistica, di competenza matematica, ma anche di competenza linguistica. E quindi di competenza umana, personale. Di competenza umana. Ecco, vedremo magari nella seconda parte cosa vuol dire occuparsi di tecnologie del linguaggio. Incontri. Tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega. E ancora con Paris Tropicale, una canzone brasiliana di Jorge Ben, riprendiamo il nostro incontro con Valeria Sandei, amministratore delegato di ArmaWave, società di business intelligence del gruppo ArmaViva. Abbiamo parlato nella prima parte della società, della sua esperienza, di questa volontà appunto di esprimere tutte le potenzialità della tecnologia, soprattutto in un ambito, parlavamo di tecnologia del linguaggio, e la società ArmaWave è specializzata in una piattaforma semantico-ontologica. Esatto. Allora, speriamo di spiegare un po' che cosa vuol dire avere una piattaforma semantico-ontologica. Il nome suona molto complesso. Certo. In realtà il significato è comprendere il linguaggio con cui noi ci esprimiamo, comprendere che cosa viene detto in un discorso, che può essere un discorso scritto, un discorso parlato, e trarne un'evidenza di sintesi. Questa evidenza a chi è utile? È utile chiaramente all'azienda che abbia voglia di migliorare i propri prodotti e i propri servizi, comprendendo quelle che sono le aspettative e i bisogni dei propri clienti, dei propri consumatori o di coloro che potrebbero diventare clienti o consumatori di quel servizio. Per fare un esempio, dopo questo nostro colloquio di un quarto d'ora, potremmo schiacciare un bottone e avremo una sintesi in tempo reale di 2 minuti, in cui qualcuno potrebbe dire: "Bah, invece di perdere un quarto d'ora mi sento questa sintesi di 2 minuti e capisco tutto." Beh, spero che i nostri 20 minuti aggiungano chiaramente valore che in una sintesi non potrebbe essere tratta. Noi cerchiamo di cogliere gli elementi essenziali che vengono rappresentati, ma soprattutto di mettere in collegamento fonti differenti, perché il problema che le aziende affrontano oggi è che in questi anni hanno investito tantissimo sullo sviluppo di quella che è definita multicanalità, quindi sullo sviluppo di tanti canali di contatto con i propri clienti, ma ogni canale ha delle logiche di comunicazione differenti. In un caso parlo, in un caso scrivo, in un caso mando dei dati. Avere una tecnologia che permette di comprendere con la stessa chiave di lettura, che è quella elementare appunto del linguaggio, che cosa viene contenuto in quel tipo di interazione, qual è il motivo per cui i clienti si stanno lamentando, qual è l'elemento invece di valore che stanno evidenziando, per poi gestirlo, per poi migliorare i propri processi, può essere un valore importante. Ecco, questo anche perché sempre di più le aziende non solo offrono dei prodotti, ma offrono un servizio. Anche nei prodotti più banali c'è un servizio, magari post vendita, magari di consulenza, magari sull'utilizzazione di quel prodotto. Ecco, un'automobile è chiaro che crea per esempio un rapporto con l'azienda che la costruisce, che la vende, perché chi la usa poi può avere dei problemi e vuole risolverli. È in questa prospettiva che voi operate, cercando appunto di semplificare anche questi rapporti tra le imprese e i consumatori. Assolutamente sì, oggi non si parla più di realizzare un prodotto, ma di disegnare un'esperienza che è fatta ovviamente del prodotto, ma anche dell'uso che può essere fatto di questo prodotto, dell'assistenza che si ottiene, come lei ha perfettamente descritto. Ovviamente l'obiettivo che l'azienda si prefigge è quello di accompagnare il proprio cliente in tutto questo percorso e quindi di orientare tutti i propri servizi, la propria evoluzione dell'offerta, il proprio modello attorno a questo cliente. Si pone l'obiettivo di mettere il cliente proprio al centro del proprio ragionamento e della propria strategia. Ecco, questo è possibile o ci sono problemi sul fatto per esempio di fare un programma, un progetto in italiano o in portoghese per il Brasile? Bisogna cambiare molte cose? Dunque, lavorando sulle tecnologie del linguaggio, chiaramente si tratta di comprendere quella specifica lingua e quindi di investire sullo sviluppo linguistico, ma in questo momento noi abbiamo già un portafoglio, chiamiamolo così, di lingue disponibili piuttosto vasto, e tra l'altro recentemente abbiamo ulteriormente rafforzato quella che è la nostra compagine tecnologica con un'acquisizione di una società, di un'altra eccellenza italiana, che è una società che si chiama Pervoice a Trento, la maggioranza del capitale di questa società, che è anch'essa una società che investe sulle tecnologie del linguaggio, in particolare per comprendere il linguaggio vocale. E questa società ha investito molto proprio sull'internazionalizzazione, sviluppando svariate declinazioni linguistiche. Abbiamo 3 tipologie di lingua inglese, 3 tipologie di lingua tedesca, il francese, lo spagnolo, 2 portoghesi, il greco, l'arabo. Quindi siamo già abbastanza avanti su quello che è il fronte dell'evoluzione della tecnologia sotto il profilo delle lingue interpretate. Ecco, voi siete presenti anche in occasione di grandi eventi, poi uno li può giudicare, le elezioni politiche, il Festival di Sanremo, ecco, in che modo? Dunque, noi abbiamo provato a declinare l'utilizzo di queste tecnologie e quindi l'utilità che ne può derivare dall'interpretazione di dati su larga scala per alcuni eventi di interesse generale. Un primo caso è stato appunto quello delle interazioni politiche. Chiaramente la politica è stata molto trasformata da questo rapporto social e questo si riflette proprio da una lettura di quelle che sono le interazioni sul mondo Twitter e sul mondo Facebook, interazioni dalle quali si può comprendere quali sono gli elementi di soddisfazione o di malcontento che le persone completamente non filtrate esprimono in maniera aperta a tutti gli altri. Quindi possono emergere una serie di evidenze interessanti per indirizzare anche l'azione politica. Chiaramente, venendo a cose meno serie e più ludiche, ci siamo cimentati con l'analisi ad esempio di un evento televisivo come il Festival di Sanremo, che è un evento che è stato molto seguito anche sul fronte social e dove dalla lettura delle interazioni avvenute si prefiguravano quelli che già sarebbero poi stati i reali vincitori della kermesse, sia vincitori in termini di cantanti ma anche in termini di gradimento e di risultato rispetto agli ascoltatori. Più recentemente, questo è stato forse l'evento che mi ha più affascinato, abbiamo analizzato sempre in questa modalità social, quindi prendendo milioni di dati che all'apparenza si prospettano in forma confusa e su cui grazie alla statistica si riescono a trarre delle evidenze di sintesi, l'evento del conclave, dove al di là dell'aspetto giornalistico che alcune volte mi è stato chiesto relativamente al cardinale che veniva più, esatto, che chiaramente così poteva essere una simpatica conversazione ma poco lasciamo fare lo Spirito Santo, esatto, in quel esattamente caso. Mi sembra più corretto. Era molto interessante vedere come a livello mondiale, perché quella è un'analisi che abbiamo appunto svolto in modalità multilingue, i temi di dibattito sul mondo della Chiesa fossero temi comuni, ma poi vi fosse una declinazione piuttosto forte in termini di argomenti tipici di ciascuna geografia. In particolare, tutto il mondo del Sud America esprimeva questa aspettativa, questa esigenza di una Chiesa che ritornasse verso, che avesse un occhio di attenzione verso i poveri, verso il mondo, la Chiesa delle origini, e sicuramente credo che anche quello che poi è avvenuto, quindi il nostro attuale Papa, certo, sia un po' una rappresentazione di questa aspettativa. Quindi anche lo Spirito Santo si è lasciato un po' influenzare dai social network. Ecco, ma questi, lei ha citato appunto, sono analisi che vengono fatte attraverso questi social network, attraverso Facebook o Twitter, che comunque restano una cosa che non rappresenta complessivamente la popolazione. C'è ancora un certo digital divide, una certa divisione digitale, soprattutto nelle, diciamo, nei più anziani che usano molto poco questi metodi tecnologici. Non si dà un po' troppo enfasi a questi strumenti per conoscere un po' l'opinione pubblica? Ma secondo me questi strumenti devono avere il corretto spazio, quindi offrono senz'altro una prospettiva e un punto di vista che non può essere trascurato, quindi che deve essere compreso e valorizzato rispetto a quelle che poi sono le finalità più proprie di ciascuno. Sicuramente non è l'unico mezzo da tenere in considerazione, non lo è chiaramente per quello che riguarda l'analisi di un evento o di una dinamica sociale, ma non lo è neanche, come accennavo prima, per un'azienda. Rappresenta una sfera del mondo delle interazioni che però, attenzione, è una sfera sempre più importante, una sfera sempre crescente, è una sfera che raccoglie quasi un terzo della popolazione mondiale a breve, quindi è una sfera che va considerata e valorizzata anche in questa prospettiva, perché sta impattando su tantissime realtà e settori industriali i più vari, dall'editoria, le comunicazioni, il mondo dell'entertainment, la pubblicità, l'advertising, le logiche di caring, le logiche di consumo, quindi non considerarla sarebbe comunque... No, indubbiamente sono strumenti che possono essere estremamente utili, direi a questo punto anche fondamentali, però ogni tanto invece di chiudersi in casa per collegarsi con Facebook, fare una bella passeggiata in montagna può essere anche utile. Assolutamente. Quali sono i suoi hobby principali, al di là del lavoro? Dunque, in passato avrei detto il flauto traverso, io ho fatto il conservatorio e quindi mi è rimasta questa passione. Oggi non lo dico più perché il mio unico hobby sono le mie figlie. Sembra assurdo dire hobby, associarlo alla famiglia, ma comunque io, dedicando molto tempo al lavoro, per me la cosa più bella è poter stare, insomma, qualche ora con loro la sera o il weekend. E quindi far crescere delle persone che sappiano interpretare il mondo anche con gli occhi di un, diciamo, dell'umanità e non solo di un computer. Questo, esatto, diciamo che con loro sto anche al computer, ma cerco di starci il meno possibile e, come lei suggeriva, di andare fuori a fare delle belle passeggiate. Ecco, allora, con questo spirito di andare a fare una passeggiata, ma soprattutto di informarsi, di essere informati e di sfruttare fino in fondo le tecnologie, di sfruttare anche fino in fondo le grandi potenzialità del sistema Italia, possiamo dire così, delle persone che compongono questo sistema, che hanno la passione per essere protagonisti in un mondo che ha bisogno anche non solo di problemi ma anche di soluzioni. Cerchiamo di darle. Grazie a Valeria Sandei. Grazie mille di essere stata con noi questo pomeriggio. Ricordo, amministratore delegato di ArmaWave, società di business intelligence del gruppo ArmaViva. Ringrazio anche Gianmarco Ferronato in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che tutte le puntate di questo programma, così come questa puntata, possono essere riascoltate dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.